And when you're right. Runtime Radio, la Talk Radio Geek, vi dà il benvenuto. Preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno. Ispirato ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft. Svela un mistero celato da eoni tra i ghiacci del tempo. Affronta l'incubo. Chronicles of Innsmouth, Mountains of Madness, dal 23 marzo su Steam. Approfitta dello sconto del 10% al lancio. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E cari amici di Runtime Radio, scusate, stavo morendo ovviamente per ragioni anche di... ero sopra un pensiero, ero concentrato. Buonasera a tutti da Runtime Radio, da Simone Pizzi, e questo è Ludico Forum. Ritorniamo dopo quella breve pausa, ma in realtà la pausa continua. Questo è uno speciale che facciamo solo in onore, insomma, del gioco di Umberto, che è uscito martedì e che, insomma, vogliamo raccontare, spiegare e dargli più spazio possibile per diverse ragioni. Vi presento intanto chi è con me questa sera, ovviamente Francesco Lobby Frontali. Ciao Francesco. Francesco, ciao. Ciao caro, non so se avete problemi con l'audio. No, basta, ti sentiamo, sì. Ti sentiamo. Perfetto, perfetto, però Audition non mi riconosce l'audio, quindi inizierò a registrare più tardi. Vabbè, non fa niente, se non registri è la stessa cosa, pare che adesso l'audio di Skype vada leggermente meglio, forse perché le basi musicali lo ammazzano, non lo so, non so perché. Capiscono, va bene, non so per quale ragione. Allora ci rinuncio e mi installo il gioco di Umberto, perché ecco, l'ho comprato, bravo. Aspettavo di installarlo l'occasione con la sua presenza. Perfetto. E vabbè, ovviamente, dato che parliamo del gioco d'Umberto, non possiamo che non presentare Umberto Parisi. Buonasera ragazzi, buonasera. E in sua compagnia, ovviamente come collaboratore, come produttore, co-produttore del gioco, come responsabile marketing, poi lo diranno loro, abbiamo anche Gianpaolo Greco. Ciao. Ciao Simone, ciao a tutti. Allora, intanto potete cercare Ludico Forum su Facebook, cercando ovviamente Ludico Forum, c'è un gruppo, iscrivetevi e fate quattro chiacchiere, ma dato che Facebook sta praticamente morendo e noi lo stiamo praticamente abbandonando, e insomma potete seguirci sui gruppi Telegram, seguite ovviamente Ludico Forum cercandolo su Telegram e cercate anche i Beceri Video Ludici, dove ovviamente troverete anche lì il gruppo Telegram, entrate, chiacchierate con tantissima simpatica gente. Se volete poi ascoltare anche le altre trasmissioni di Runtime Radio e volete partecipare con noi, c'è Dirette Runtime Radio ovviamente, e a seconda della diretta che è in quel momento sulla nostra web radio potete commentare, ma in realtà poi ognuno parla dei cazzi suoi come sempre, ma è come anche giusto che sia, perché va bene così, insomma, ci piace questa cosa che ognuno durante le trasmissioni ognuno fa quello che gli pare. Vi ricordiamo anche dei Beceri Video Ludici, che è un podcast che trovate anche su Spreaker, ma soprattutto è un canale YouTube al quale vi dovete iscrivere e attivare la campanella, ma è anche un canale su Twitch dove c'è un streaming full 24 con vari materiali più le dirette ovviamente delle varie trasmissioni. Una l'abbiamo fatta mercoledì sera sul full motion video, c'ero pure io che raccontavo un sacco di cazzate, ma a un certo punto me ne sono andato. Sono cose che succedono, insomma, i ricordi, la nostalgia. Bello, bello il full motion video. Penso che prima o poi ci faremo comunque anche una puntata su archeologia informatica con Carlo, che è intervenuto poi in chat, ha detto calla, mo c'è il rischio che Umberto lo butta dentro e alla fine, insomma, invece fortunatamente ci ha risparmiato da questo punto di vista. Allora ragazzi, penso che stai per dire prima o poi faremo qualcosa col full motion video. meglio, visto che qualcosa era in progetto, ma è in stasi, diciamo così. Sì, in effetti, vabbè, ne abbiamo parlato pure l'altra sera, insomma, scherzando sul fatto che poi noi avevamo questa idea che sapevamo perfettamente non avremmo mai concretizzato, e allora l'abbiamo trasformata in un trailer un po' Commodore 64, diciamo, insomma, quindi con 16-32 colori massimo. Adesso non so bene con che tecnica ha utilizzato Alex, con quest'idea che prendeva poi spunto da, da un gioco che abbiamo citato proprio mercoledì, che è Press X Do Not Die, esatto, sì, che è un gioco becerissimo e che potremmo replicare in qualsiasi momento della nostra vita soltanto con il braccio destro, però loro l'hanno fatto per prima, hanno avuto l'intuizione e sicuramente hanno fatto anche qualche soldo con questa cosa. Allora ragazzi, questa sera parliamo appunto della, della psychodev, del, del gioco che poi adesso però permettetemi di fare una piccolissima introduzione, diciamo una premessa. Voi in generale io non tendo così, proprio per abitudine mia personale, perché comunque ci è sempre piaciuto essere un po' fuori da, dai giochi, dalle cricche, poter criticare liberamente. Diciamo che io non ci ho mai avuto un buon rapporto in generale con gli sviluppatori italiani, perché gli sviluppatori italiani secondo me spesso e volentieri non hanno un buon rapporto con il modo in cui dovrebbero pubblicizzarsi, perché quando il giorno arriverai a vendere i milioni di copie di GTA potresti anche decidere se partecipare o non partecipare, però siccome che molti sviluppatori italiani ho avuto sempre questo tipo di problema, insomma, che pensavano di essere in una realtà al di fuori della loro portata, e allora vabbè, si cazzi, no? Diciamo che tendenzialmente io non parlo quasi mai dei giochi, pur volendolo fare, perché come Umberto sa, perché per una questione proprio di al di là dell'amicizia, no? Che è nata a prescindere dal gioco, no? Cioè, siamo incontrati su un modo di concepire anche il modo di fare podcast, di stare insieme, di anche questioni di atteggiamento, siamo diventati amici. Poi ovviamente il discorso del gioco è anche una questione collaterale, però io darei spazio a chiunque voglia avere spazio per dare quei 5 minuti in più di pubblicità un qualche cosa che anche se fa 5 click in più, voglio dire, sono sempre 5 click benedetti, secondo me. Ma stai scherzando, esatto. Però, però ecco, no, loro, perché tutti diciamo, ma tu fai quello fuori da che, e poi alla fine stai sempre a parlare, perché alla fine sono arrivate anche queste cose qua, no? Che poi io in realtà spesso e volentieri ultimamente, per come sono fatto io, vado oltre, no? Però mi fa anche un po' incazzare sta cosa, cioè nel senso che dico, allora parliamo con Umberto, del gioco di Umberto e del loro progetto, perché comunque è una cosa che è una cosa anche giusta da fare, al di là del fatto se ti piace l'avventura grafica o via dicendo. Poi secondo me c'è anche un fattore di merito e di qualità che magari tante volte molti delle persone che si sopravvalutano forse non mettono poi allo stesso livello. Ma detto questo, che è un discorso ho capito solo io, Umberto, benvenuto. Buonasera Simone, buonasera, grazie per l'invito e grazie per la possibilità di parlare un po' di Chronicle of Ismaut Mountains of Madness, che è il nostro secondo gioco e che è uscito 3 giorni fa. Quindi siamo ancora in pieno subbuglio. Esatto, immagino. Beh, allora, intanto c'è Francesco, perché Francesco è stato un grande stimatore, un grande sponsor del primo gioco e so che non vedeva l'ora che uscisse il secondo e quindi, insomma, penso che sei abbastanza in bolla per poter parlare anche questa sera, magari per fare domande, fare commenti e via dicendo riguardo questo gioco, giusto? Che ti stai installando in questo momento? Che sto installando in questo momento? Non credo che lo giocherò al momento, se no mi salta tutto e mi distrarrei, anche se in realtà per ripetere l'esperienza, perché mi ricordo durante il lockdown stavo proprio giocando, avevo ripreso che l'avevo interrotto da mesi, proprio il primo gioco di Umberto, Chronicle of Ismaut. Mentre si stavo giocando vedevo che eri stato invitato proprio una puntata dei Becer Videoludici, inizia a chattare, a un certo punto Umberto mi tira dentro e divento tipo l'hotline per il... per gli aiuti proprio over 9000, cioè chiedevo direttamente allo sviluppatore: ho un besto qua, che devo fare? Bella sta cosa, ma per qua perché hai fatto così? È bello sta. Tanto salutiamo e non vedo l'ora di ripetere l'esperienza anche con Mountains of Madness. Scusa Simone, ti ho interrotto. No vabbè, in realtà so io che stavo interrompendo voi. Comunque salutiamo in chat Alessandro, Lone Carter e Lowy Lorecraft, che giustamente ci vengono a trovare, e questa cosa della chat prima o poi dovremmo risolverlo sto problema, però vabbè, è anche divertente. I nomi, no, è bellissimo, eh sì, è divertente, bene, però fino a che non arriva qualcosa di becero, diciamo che per ora è abbastanza divertente. Allora, dunque, aspetta che prendo un po' di appunti, perché io partirei intanto dal fatto che abbiamo già raccontato una volta, però secondo me è carino un po' riraccontarlo e dare proprio spazio anche a questo percorso, perché non è che Umberto nasce e ha progettato la sua vita per diventare uno sviluppatore, diciamo che è una persona che faceva tutt'altro nella vita e anche per curiosità, per esperimento, magari provando un tool specifico, magari poi ce lo dice lui, insomma, alla fine ha portato a termine un progetto che è il primo gioco, che è il primo Chronicle of Innsmouth, giusto? Io non lo dirò mai, io sai che non ci riuscirò mai. Ma vai tranquillo. Chronicle of Victus. Esatto, Victus. Per me sì, per me è una cosa proprio impronunciabile, ma no, il gioco è proprio la cosa, insomma. Vai, scusa Umberto. Te la puoi prendere con Howie in chat. Esatto, Howie, ma che cazzo, ma cioè fate sti titoli troppo complicati, lo devi chiamare semplicemente son matto, cioè pure Cthulhu, basta, cioè. Comunque, vai. Io ti posso dire una cosa, questa volta chiamerei in causa Giampaolo, perché racconto sempre io questa cosa. Ok. Sentiamo anche un altro punto di vista. Perché lui c'era già nella prima ora? Abbastanza presto nella prima ora, sì. A parte, insomma, quello che hai raccontato tu, che io per caso stavo all'Elba, mi annoiavo a morte, ho detto fammi vedere come si fa un videogioco, avendo avuto sempre io una grande passione per i videogiochi, no? Uh-huh. E mi è venuta questa cosa. È nato tutto così, veramente per gioco, cioè. Ma per cazzeggio. Infatti, Umberto, potevi pensare: ma come si fa una statua? Ma come si fa, non so, una barca? Proprio un videogioco. Come si fa una bara? Sai? Una bara. No, beh, quello è remunerativo forte, per esempio, insomma. Certo, infatti. Stomaco. E niente, sì, poi Giampaolo l'ho coinvolto abbastanza presto, sì, a metà produzione, credo, più o meno. Del primo gioco. A metà produzione, sì, più o meno verso un 5-6 mesi prima, forse anche 8 mesi prima dell'uscita, credo, più o meno. Questa qua è stata più o meno la data in cui sono entrato a far parte del team. Chiaramente perché Giampaolo, che fa parte di quella branca degli sviluppatori, quelli là con la puzza sotto al naso, capito? Prima non mi cacava proprio, fino a quando non ha visto che il prodotto in effetti sarebbe uscito sul serio. Beh, allora, da quel punto di vista, però, due passi indietro, cioè da quel punto di vista, come biasimarlo, no? Nel senso, un pochino dice, oh, alla fine arriva uno. Ma lo sto sfottendo, perché noi ci conosciamo da ragazzini. Ok. Sì, diciamo che noi abbiamo stretto amicizia da ragazzini per i videogiochi, perché vabbè, non solo i nostri, diciamo, genitori erano amici, ma poi andavamo loro in vacanza insieme, quindi entrambi portavamo il Super NES in vacanza, perché giustamente mica volevamo andare a mare, noi volevamo giocare al NES davanti al mare, e quindi abbiamo capito che in qualche modo avevamo delle cose in comune. E poi ovviamente non soltanto la passione di videogiochi, manga, eccetera eccetera, era un periodo in cui fin da piccolini abbiamo condiviso tante passioni. E poi a un certo punto Umberto nella vita ha deciso di fare il fisioterapista, vorrei insomma ricordarlo ancora una volta, e quindi ero rimasto là. Ma anche quella è una cosa che ho deciso tardi. Io mi sono iscritto all'università a 28 anni. Con calma, se fanno le cose si fanno con calma. Meglio tardi che mai. Devo dire la verità, ci sono persone che iniziano presto ma finiscono ancora più tardi ancora di quando tu hai finito, quindi sostanzialmente 28 in Italia non è poi così male, ma o non finiscono proprio. No, c'è gente che inizia presto e finisce anche ancora prima, quindi c'è gente che di lavoro va all'università per studiare, quindi, voglio quindi è pieno, e quindi a un certo punto tu hai un amico che lo chiami quando ti fa male la spalla, ti chiama lui a te: ah, vuoi vedere il nuovo gioco? Io ne ho diversi di amici che mi hanno chiamato nel tempo, ho scaricato Game Maker, ho fatto questo gioco per divertirmi, era tipo l'emulazione di Frog che attraversa la strada e fa cose di questo genere, quindi non è che pensavo, vabbè, Umberto ha fatto il gioco, che ne so, così diamogli un attimino fretta, ma poi ci allontaniamo, diciamo, in silenzio, di soffiato, come le merce, camminando all'indietro, tipo Mersim. Sì, esatto. Ah, Umberto, bello, bello, bello, bello, Umberto, cambia. No, poi alla fine dei conti, il gioco era il primo, era valido, nel senso che io, ovviamente, devi essere amante del genere e capirlo, perché se poi ti piacciono i videogiochi ma non capisci il genere, ovviamente fai un poco di fatica a entrare nell'ottica delle avventure grafiche, soprattutto la prima avventura grafica che ricordiamo era fatta con i 9 verbi, quindi davvero molto di nicchia sostanzialmente, però dietro si vedeva il lavoro che c'era, la cura, il dettaglio, la lunghezza del gameplay. E poi alla fine, quando si fa videogiochi, in realtà la prima cosa che si fa, e questo non ho mai capito se Umberto lo ha fatto con cognizione di causa oppure no, ma penso di sì, è quello di studiarsi il pubblico di riferimento, cioè tu per chi stai facendo il gioco. Il gioco non si fa mai per se stessi, perché altrimenti non lo venderesti a nessuno, devi avere un pubblico di riferimento. E vabbè, in quel periodo io rientravo nel pubblico di riferimento, però rientravi, però è una casualità, nel senso che ovviamente puoi rientrare, però sicuramente devi farlo per un pubblico di riferimento di base. E in quel periodo, anche perché le avventure grafiche nascono già vecchie, cioè Chronicle of Innsmouth, Mountains of Madness, ora che è uscito 3 giorni fa, ma è già vecchio, è anacronistico, nel senso che è un videogioco che non può invecchiare, è già vecchio di suo, nel senso che fra 10 anni non puoi dire invecchiato male, diciamo questo gioco è invecchiato male, no, è così già di suo, no. Quindi sì, esatto, cioè, quindi fondamentalmente vanno a prendere quel tipo di pubblico che magari non è giovanissimo, infatti poi dopo magari vi racconterò anche sul perché di questo, diciamo, di questo aspetto. Non è giovanissimo, comunque apprezza questo genere di giochi, e sono giochi che hanno una coda lunga, ovvero che si iniziano a vendere e li inizi a vendere un giorno e poi smetti dopo 10 anni, perché comunque hanno davvero sempre degli aficionados che li comprano. E questo è capitato ovviamente con Chronicle of Innsmouth e anche con Mountains of Madness, e ci sono un sacco di appassionati di avventure grafiche. E in più, una cosa importantissima che ho visto fin dal primo gioco, perché parliamo del primo incontro, è che comunque la IP, ovvero la proprietà intellettuale di Lovecraft, che i diritti sono scaduti, ha comunque forse la più grande community di persone al mondo per questo genere. Quindi era facile anche trovare persone che volessero giocare a un gioco di Lovecraft, che magari non sono così amanti delle avventure grafiche, ma gli piace il tema Lovecraft. Quindi aveva del potenziale il gioco, e di fatto abbiamo fatto un poco di accortezze per il lancio, vi ho dato una mano soprattutto per la prima parte del lancio, e devo dire che per il team, il primo gioco, il fatto che il team nessuno lo conosceva, ma nessuno proprio, nel senso che non era neanche un team, forse neanche oggi lo è a livello legale, tra parentesi, ok? Però non era un team con 0 track record, nessuno conosceva Psychodev. E ha fatto dei numeri interessanti all'inizio, ma ha dei numeri molto più ampi rispetto a tanti altri giochi indie italiani che sono usciti. Ora, l'Italia non è il paese dove i giochi che vengono pubblicati fanno i milioni, però sicuramente ci sono tanti giochi, anche di team un po' più conosciuti, che posso assicurarvi hanno fatto meno copie vendute rispetto al primo Chronicle of Innsmouth. E questo è un dato di fatto importante, anche per iniziare un discorso insieme a voi questa sera sul perché poi abbiamo fatto il seguito, ma non vorrei anticipare, insomma, le tappe. Quindi questo è stato il mio ingresso nel team, fondamentalmente. Allora, intanto diciamo che i link sia al cioè ovviamente prevalentemente al secondo gioco, ma anche al primo, perché poi alla fine comunque vale la pena comunque recuperarlo. Li metteremo nelle note dell'episodio, quindi quando scaricherete il podcast su Spreaker troverete ovviamente i vari riferimenti. E si tratta, soprattutto il primo gioco, di un'avventura proprio di stampo lucasiano, che ha creato poi anche un po' di come posso dire, una reazione in molti di noi che l'hanno giocato un po' in attesa, perché in realtà inizialmente trovi questa grafica pixel art lucasiana, proprio vecchio stile, con i verbi sotto e anche quindi tutta la vecchia interfaccia, e quindi ti aspetti un approccio anche più brillante, e poi ti caghi sotto dopo, che dici no, ma c'è qualcosa, cioè nel senso è anche spiazzante, no? È anche disorientante, e dimostra poi alla fine, e qui penso Umberto mi confermerà, l'amore per quel tipo di approccio, che secondo me poi alla fine era anche comunque un ambito conosciuto, perché comunque, ecco, io sono una cosa che posso dire, Umberto in generale l'ho visto e l'ho sentito parlare dei videogiochi a 360 gradi, quando non conosce qualcosa, lui quella settimana la conosce quella cosa, nel senso che non è che dice vabbè se lo legge, no, è tipo sui full motion video, per fare la puntata sui full motion video si è giocato penso anche la merda, perché poi alla fine fondamentalmente sì. Lui è proprio, è importante giocarsi la merda per sapere cos'è, credo. Esatto, no, cioè la cosa bella è questo approccio quasi accademico, quasi, anche se è fatto per divertimento, per gioco, no, però l'esplorazione per conoscere la cosa di cui si parla, no? E alla fine, secondo me, ecco perché secondo me lui sapeva, quando è andato a fare questa cosa, ha scelto il tool e ha scelto il tipo di approccio, proprio perché comunque sapeva che era alla portata, magari, a un certo punto, no? Sì, ma devi... Sì, ho pensato che fosse possibile, magari ho pensato che non fossero possibili altre cose tra le varie scelte che mi si presentavano, perché naturalmente questo, anche per chi si volesse approcciare a qualcosa del genere, deve essere un qualcosa di raggiungibile, altrimenti non lo inizi e magari vai avanti ma non lo finisci mai, cioè deve essere alla tua portata, assolutamente. Anche perché poi secondo me, cioè, se una persona inizia da solo un'estate o una primavera o quello che cazzo è, in un periodo e in un posto dove si sta rompendo i coglioni perché ci devi stare per lavoro, per qualsiasi tipo di motivo, e comunque non hai socializzato più di tanto, alla fine, voglio dire, qual è la cosa che tu puoi fare da solo senza coinvolgere tante altre persone? È scegliere il tool che per te è più appropriato e fare la cosa che secondo te è la cosa più appropriata, anche secondo i tuoi gusti, perché poi chiaramente, cioè, non è che mi metto a fare l'avventura grafica perché è facile fare l'avventura grafica, comunque l'avventura grafica devi essere, cioè nel senso devi sapere quello che stai a fare, insomma, quindi alla fine penso che è una scelta motivata e sensata da quel punto di vista. Però ecco, appunto, questo riferimento all'aspetto lucasiano era una comodità o proprio una scelta proprio stilistica tua, che proprio volevi farlo? No, è stata proprio una scelta, perché lo volevo fare un gioco che richiamasse la Lucas, perché ribadisco, Monkey Island è tra i miei giochi preferiti di sempre, anche se ci ha un po' rotto il cazzo, no? sì ci avrà pure un po' rotto il cazzo, però no. Cioè, capito? Mi sarebbe tanto, e l'ho fatto in effetti, scrivere in quel tono lì, hai capito? Ma lascia stare i nove verbi, la cosa che i nove verbi in realtà è stato comunque un po' macchinoso inserirli, cioè erano già disponibili ma comunque non funzionavano bene, cose del genere, comunque già si usava un puntatore intelligente, però io volevo i nove verbi come Monkey Island in quel gioco, cioè li volevo proprio. No, chiaramente è stata anche una fatica. Chiaramente Monkey Island ci rotto il cazzo è una provocazione, cioè nel senso lo sai che realmente non lo penso, è che è più il contorno quello che mi ha rotto il cazzo, però è così, sì, cioè, no. quello anche a me. Infatti, ecco perché poi c'è questa cosa che tu hai cercato di fondere queste due passioni, no? Quindi quella citazione lucasiana ha invece un contesto narrativo che di solito è proprio completamente insomma, Lucas, cioè le avventure di Lucas raramente sono andate insomma sull'horror, diciamo così, comunque sulle ambientazioni proprio lovecraftiane, e invece tu hai fatto sposare queste due passioni, perché tu in realtà poi alla fine sei proprio, cioè ami proprio quel tipo di letteratura lì, anche quel tipo d'autore, insomma. Sì, sì, ma Lovecraft è sicuramente uno, se non il mio autore preferito, cioè io l'adoro letteralmente da quando ero ragazzino, però mi sono, proprio perché non era stato mai, allora prendi tutti i giochi o le avventure, non dico tanto i giochi, ma comunque anche i giochi in genere, ma le avventure di stampo lovecraftiano sono tutte molto plumbe, sono tutte molto pesanti, no? Shadow of the Comet, sì, cioè sono, ma lo stesso Alone in the Dark, voglio dire, che si ispira, no? Che è un gioco di chiara ispirazione lovecraftiana. Le atmosfere sono cupe, cioè sono sempre, c'è sempre odore di legno, non lo so, non so se no, no. C'è sempre odore di legno e di soffitta vecchia, non lo so, in questo senso qui. Mentre io volevo capire se avrebbe funzionato miscelarla invece con un umorismo di stampo lucassiano, che non è prettamente umoristico, è più sarcastico, più grottesco, no? Esatto. E pensavo che l'essere grottesco in qualche modo potesse applicarsi ad un racconto lovecraftiano. E poi sì, c'è giustamente, c'è la virata quando arrivi a Ismaut, però se notate comunque rimane un po' di, cioè che ne so, arrivi quello lì, arrivi al tipo al bancone che parla tipo Smeagol, no? del Signore degli Anelli, no? Fa sì, la stanotte, sti fatti qui, cioè è un personaggio un po' inquietante, però comunque è sopra le righe, per intenderci, no? Cioè non è che si appiattisce tutta la parte, oppure il personaggio quando sul finale vedi, che ne so, vedi l'altare e muori all'improvviso così, che fa ridere. Cioè è vero che muori, però come muori fa ridere. Io ridevo quando vedevo quella scena. Non so se muori e bestemmi, sì. Meno male che puoi ricaricare subito. Sì, posso, sì, ricarichi subito. Posso dirti una cosa? Dimmi. No, giusto un appunto. Alla fine non è così, cioè non è che tanto hai fatto sposare due opposti, perché citando lo stesso Lovecraft, l'inizio proprio della casa stregata, cioè che l'ironia anche nel più grande degli orrori raramente è assente, quindi è una cosa che comunque è nello stesso Lovecraft la presenza comunque di un certo qual modo di ironia, di sarcasmo, di qualcosa di nero, però non necessariamente cupo al 100%, quindi qualche elemento, cioè, di apertura dallo stesso Lovecraft c'era, e dallo stesso punto anche la Lucas, comunque anche se in modo molto molto di umorismo nero, soprattutto mi viene in mente Monkey Island 2, c'è una cupezza di fondo in realtà che traspare, sì. Da là. Quindi comunque io ci ho visto due pezzi di puzzle che si sono incastrati perfettamente uno con l'altro. Mi fa piacere, perché io ho lavorato, il lavoro più grande sul primo è stato proprio incastrare la prima e la seconda parte, dargli un tono che non si discostasse molto. Molti l'hanno trovato comunque molto differente. Io ho fatto per quanto possibile, ho cercato di renderla equilibrata, ma non uguale, però equilibrata la cosa. Mi fa piacere che qualcuno magari ha colto lo sforzo tipo Francesco. Quindi, non era facile. Quindi secondo te, però, come autore, indipendentemente poi magari da quello che abbiamo, cioè che dice il pubblico, secondo te è un esperimento riuscito, parzialmente riuscito? È un esperimento, secondo me è un esperimento riuscito. Cioè, se conti ciò che si aveva in campo e ciò che è uscito fuori, secondo me è un esperimento riuscito. Cioè, meglio di quello difficilmente avrei potuto fare. Bene, bene. Cioè, questo è il discorso. Non è che si dice è un gioco perfetto, però io in quel momento storico credo che non sarei riuscito a fare più di quello, anche perché contate che l'ho quasi, qualcosa l'ha fatta Medeo, l'altra ragazza che c'era, ma per l'82% l'ho anche disegnato tutto io, quindi era, cioè più di quello non si poteva fare, se non facendolo uscire dopo 10 anni, cioè in questo senso qui, no? E quindi tutorial su tutorial di pixel art. Tutorial su tutorial, quanti cazzo di tutorial di pixel art che ho fatto. Però, però questo è un po', vabbè, chiaramente poi c'è un primo progetto, poi per quanto tu poi hai esteso ovviamente magari a collaborazioni o roba del genere, comunque un progetto che parte di base come singolo, no? E in un contesto che poi alla fine non t'era così familiare, cioè nel senso, al di là dell'essere una persona che comunque usufruisce di quel tipo di intrattenimento, poi cioè, comunque l'ambito dello sviluppo è un ambito un po' particolare, no? Quindi hai dovuto fare comunque la tua ricerca, hai dovuto fare il tuo studio, sei dovuto imparare a fare determinate cose, e quello è il miglior risultato che tu potessi ottenere con l'esperienza che avevi acquisito, perché poi fondamentalmente l'esperienza era il gioco stesso, no? Quindi alla fine è uscito fuori un prodotto che comunque ha attirato l'attenzione, che comunque c'è stato, sicuramente ha movimentato. Ora non è che siamo qui a fare questione dei dati o no, però sicuramente nel momento in cui tu ti sei posto la questione, così poi sentiamo anche Giampaolo, sentiamo un attimo, poi magari facciamo intervenire anche lui. Vi siete posti comunque la questione di andare a fare un nuovo progetto con una consapevolezza, come abbiamo detto tante volte, diversa rispetto a quello che è il primo approccio, quindi questo inizio un po' più scanzonato, ma fare invece proprio un approccio serio, cioè voglio raccontare una storia per bene, cioè proprio la voglio raccontare con tutti i crismi, dandogli una direzione artistica più omogenea, magari anche uno stile grafico interessante. Cioè è chiaro che, voglio dire, c'è stato il momento in cui avete deciso di fare questo e vi siete approcciati a questa seconda avventura, e qui l'avete fatto insomma più coscientemente, insomma oramai era proprio, avevate deciso che questo era la strada da percorrere. Ecco, diciamo, quando è che si accende sta lampadina e poi come ci si avvicina a questo nuovo progetto, se questo nuovo progetto è virtualmente nato il giorno dopo che hai finito il primo? Allora, il nuovo progetto è nato in realtà prima che finissi il primo, perché il plot di questo gioco che volevo assolutamente fare è venuto all'80% della produzione del primo, su per giù. È nato lì, e naturalmente verso la fine del rilascio del primo titolo io quasi non ne volevo più, ma un po' come adesso, quasi non ne volevo più sentir parlare, no? Sai, quelle cose che... Quando ti saturano, sì. Sì, che veramente non ne puoi più, esatto. Sei sfinito. Però poi, in generale, la risposta una volta uscito, a parte che il primo gioco è stato particolare, perché vi ricordo che su Steam c'era Greenlight, sì. Vi ricordate? Sì, prima sì. Non si... adesso dai 100 euro e pubblichi, ok? Chiunque. La devastazione sta cosa, infatti ne faremo una puntata su sto tema. Ok, invece all'epoca c'era Greenlight e noi quando con Greenlight siamo riusciti a sfangarla, sono quasi commosso, hai capito? Detto, ma allora si può fare, cioè qualcuno a cui può interessare il nostro gioco, cioè, e forse lì è scattato il fatto di dire, ma forse veramente questa è una cosa che potrei fare di lavoro, vedendo l'interesse, perché sai, non hai mai fatto niente, vedi la gente interessata, in circa un mese e mezzo siamo stati accesi, verdi, per poter entrare su Steam. Ho detto, sei ingolosito, ti sei fatto venire là. Ma come vi siete confrontati? Cioè, ma lo facciamo? Cioè, ci proviamo? Come sì, in realtà lì è stato il primo grande diverbio, diciamo, con Amedeo, il ragazzo Amedeo Masaturo che lavorava con me, perché in quel momento per me è diventato un lavoro. Mentre prima cazzeggiavamo, quando abbiamo provato questa cosa, abbiamo provato quindi, detto adesso abbiamo, la gente ci ha votato, abbiamo quasi un dovere, no, di fare le cose per bene. E qui è iniziata, insomma, un po' sono iniziate un pochettino le prime scaramucce, che sono poi, insomma, esplose all'uscita del gioco e Amedeo è andato via perché la sua visione della cosa era diversa, lo voleva fare solamente per sfizio. Io invece in quell'anno lì, credimi, io ci ho lasciato il sangue anche su Chronicle of Isma. Cioè l'anno prima, è passato un anno dall'essere accesi su Greenlight a pubblicare il gioco. Io quell'anno lì mi sono veramente, veramente, non lo so, mi sono veramente è qualcosa. Mi sono ucciso proprio. Certo. Allora salutiamo intanto Zadok in chat che ci scrive che vabbè, insomma, Alessandro ci chiede se ci sono problemi. Sì, allora ci sono dei problemi audio sicuramente, ragazzi, non dipende da noi, sono 3-4 giorni che lo stream ha dei problemi. Se non riuscite a seguire la live per qualsiasi ragione, però volete fare delle domande a Umberto, e scrivetele in chat, io poi ve le riporto e domani poi scaricate la puntata in podcast. Ragazzi, io in questo momento purtroppo non ho la possibilità tecnica di risolvere questo problema, nonostante i ticket che abbiamo mandato a Shoutcast, a Zuracast, perché qui, come abbiamo detto anche ieri sera, più tu paghi un servizio e più è una merda. Cioè, io suggerisco andate nei sistemi gratuiti, perché almeno il sistema gratuito non te cazzi, cioè nel senso non paghi e sti cazzi, no? Cioè nel senso, comunque vabbè, dai, riprendiamo un po' questa buono. Esatto, no, scusate, però no, mi dispiace che sapere che verde, stanno verde, no, ma ha ragione, tranquilli. Che stanno cercando di seguire in chat e non ci riescono, insomma. Eh sì, mi dicono che non si sente bene. Lo so, vabbè. Allora, Giampaolo, intanto vengo da te. Tu invece, quando Umberto ha detto insistiamo, tu cosa hai pensato? Dice, vabbè, sì, vabbè, prima era un... Cioè, nel senso, però adesso sta diventando una cosa seria, ma dici sul serio, sei un pazzo, hai chiamato la Croce Verde, non so, cosa... Sì, ho pensato quello e anche altro che non so a dire, diciamo che è stato un po' un'evoluzione, insomma. Poi sai, Umberto comunque è coinvolgente perché alla fine, quando trovi una persona che ci crede come lui, che davvero comunque ha rischiato il tutto e per tutto in questo sogno, alla fine, che è nato da lui, alla fine ti coinvolge questo, perché vedi una persona che ci crede ciecamente in un progetto e quindi dici vabbè, ma c'è qualcosa che mi sta sfuggendo forse. Quindi alla fine, man mano poi inizi poi non solo a vedere Umberto, ma anche le persone che poi ti scrivono e che danno buoni feedback sul gioco, in generale la community che si sta creando e che si è creata è un qualcosa che dà voglia di continuare. Infatti devo dire la verità che dalla campagna Kickstarter abbiamo davvero curato fino alla singola persona dei Baker che hanno dato sostegno al gioco, anzi forse più di tante altre volte la community da parte nostra è stata curata all'inverosimile. Umberto quasi mandava gli auguri di Natale a ogni singola persona che ha dato, diciamo, i soldi al gioco. Quindi abbiamo capito che non soltanto il gioco era da seguire, ma anche la community, lo zoccolo duro che si stava creando di persone appassionate del gioco, è importante in un qualche modo interagire sempre con loro. E forse è anche uno degli aspetti più belli di questo lavoro, in quanto non è che c'è lo sviluppatore che ti immagini che dentro uno, diciamo, un angolo della casa a lavorare e basta. In realtà oggi tanto del lavoro si fa anche interagendo con la community, soprattutto se si è piccoli e indipendenti come noi. E quindi tutto questo in realtà mi ha fatto anche a me credere nel progetto e arrivare fin dove siamo. È vero che il secondo progetto è nato in maniera differente. Uno, Umberto era più consapevole di quello che stava facendo, perché magari all'inizio era molto spero e credo che questo sia un progetto interessante ma non so come farlo. Invece al secondo progetto era sicuramente un'idea ben più diciamo radicata di come fare un videogioco, e infatti abbiamo iniziato con una campagna Kickstarter, come qualcuno sa, e la campagna Kickstarter poteva andare male e invece è andata bene, quindi un'altra comprova che forse la via che stavamo intraprendendo era corretta per certi versi. E da lì l'inizio della fine, in un qualche modo, perché quando puoi fare una campagna Kickstarter, volendo o nolendo, devi portarla a termine, altrimenti non è che vai in prigione. Un sacco di persone hanno chiuso campagne e poi si sono scomparsi nel nulla, insomma, con tutto il bottino. Però sì, vabbè, questa pure è un'altra impegno, bella storia, insomma. Sì, è un impegno che ti prendi. Quindi impegno preso non è più soltanto con le persone del team, ma con persone esterne che hanno dato dei soldi prima ancora di vedere diciamo la prima linea. Questa cosa non tutti l'hanno capita comunque. Dell'impegno preso, sì, non tutti l'hanno afferrata per bene. Ma non presente in questa chat o non? No, non presente. No, l'avrebbe detto esplicitamente. No, magari si feriva, non so, a Simone, a Francesco, non so. Ma io guarda, non c'avevo bisogno di prenderlo seriamente. Per me, io e lui condividiamo un'esperienza comune che è una cosa simile, anche se su ambienti diversi, perché io 15 anni fa feci un po' una cosa come fece lui. Ragazzi, io sto facendo sta cosa, vabbè, è arrivato, mo sta a fare sta cosa. E alla fine c'era sto gruppo di 20 persone che veniva dietro a st'idea, capito? Ed è stato, cioè, quindi alla fine riconosco in Umberto un'energia, una capacità che è motivata da un desiderio, no? Che è quello comunque di portare a termine un progetto, insomma. E questo, ecco, io l'ho sempre, insomma, vabbè, io poi lo sa quello che penso, ma non è, cioè, insomma, non è che siamo noi che dobbiamo dirlo, insomma. Penso che poi alla fine, se si vede col fatto che riuscì a portare da soli o con poche persone in porto due progetti su Steam, raga, cioè senza risorse, poi fondamentalmente non è una cosa che lo fanno tutti, insomma, quindi bisogna lo fanno i temerari un po' troppo, i matti, esatto. Poi dici uno, vabbè, a volte dovrebbe dire vabbè, ma cazzo, dovresti avere un senso di responsabilità, un'altra volta. Intanto mi dicono la prossima vita. Ci vuole un lascito nella vita, non puoi andartene senza lasciare un pezzettino. Ma di te, dai. Sì, io purtroppo sono totalmente d'accordo con te, e dico purtroppo perché insomma a volte invece vengo rimproverato, perché dice dovresti pensare un po' più a non so, però vabbè. Vabbè, comunque torniamo a noi, parliamo un po' del gioco, che è una cosa interessante, così qui interviene anche Francesco che lo sta giocando adesso. No, non lo sto giocando adesso, posso giocarlo adesso. Puoi giocarlo adesso. Allora, intanto me lo vorrei gustare in realtà più quando sono tranquilli, in realtà, quindi. Guarda, il vabbè, poi dell'atmosfera ne parliamo. Prima volevo parlare un attimo di dell'idea che stava sotto, perché comunque qui c'è un grosso cambio proprio dal punto di vista anche della progettazione e della realizzazione, perché vabbè, via l'interfaccia a verbi, quindi via tutta una serie di orpelli, e praticamente diventa un'avventura anche più matura da quel punto di vista, e soprattutto nella costruzione grafica che incomincia ad assumere un livello, secondo me, superiore, e anche in atmosfera, cioè una caratterizzazione, un carattere molto più carismatico, no? Proprio come tipo di avventura. Ecco, parliamo di questo, cioè come è stato pensato e come alla fine, qual è stato il processo magari di realizzazione, per quello che si può dire, e che cosa poi alla fine di questo risultato finale che c'è nelle meccaniche, nel gameplay, nella tecnica, cosa miglioreresti in un momento in cui potresti farlo, e cosa invece ritieni che è proprio il risultato così come volevi che fosse. Ok, allora tante domande tutte insieme. Sì, guarda, una alla volta, una alla volta. Sì, per ciò che concerne l'interfaccia, andava cambiata, perché i 9 verbi sì, sono belli, sono nostalgici, però o li usi in modo intensivo o appunto, come dici tu, diventano dei semplici orpelli, ok? dato che io nel primo gioco non li ho usati in modo intensivo, cioè quello che facevi con premi lo facevi anche con USA, come ti devo dire, no? Perché mi sembrava brutto far fare al giocatore nel 2017 qualcosa di così costrittivo come, che ne so, utilizzare solamente premi o solamente tira. Non so se mi spiego. Sì, sì, no, è chiaro. Cioè, senza che l'interfaccia fosse minimamente intelligente. Ma io penso che quella è una scelta che tu fai la prima volta perché è divertente, cioè anche giù. Poi però se tu vuoi andare avanti, devi andare avanti, insomma. Sì, sì. Era un po' ridondante, cioè era un po' che non l'avevo utilizzato. Ho detto, se non l'ho utilizzata prima, nel mio modo di approcciarmi alla cosa, non la utilizzerò neanche adesso. E poi vorrei qualcuno che insomma disegni, e quindi vorrei dare anche sfoggio di un full screen, no? Per il gioco, questa è anche una cosa importante, perché alla fine mettere l'interfaccia sotto praticamente ti rimane meno di un terzo di schermo dove mettere il gioco, non so. Vabbè, certo, è un pochettino così. E naturalmente l'idea del gioco era nata durante la produzione del primo, proprio mentre stavo scrivendo una cosa, mo per non fare spoiler, se no per chi se lo vuole giocare, insomma, mi è venuto in mente di botto l'intero plot del primo, come l'altra sera mi è venuto in mente l'intero plot di un altro gioco che ho raccontato a Giampaolo. Giampaolo, ci sei? Vero. No, e lui giustamente taceva. Giustamente taceva. Praticamente, però, a parte questa cosa dell'interfaccia, questa volta volevo che i toni fossero leggermente meno sopra le righe, per poter essere più lovecraftiano in un certo qual modo, quindi poter donare quell'atmosfera tipica anche un po' noir, no? dei fatti lovecraftiani, che nel primo c'era, però essendo tutti i personaggi un po' sopra le righe le cose funzionavano fino a un certo punto, mentre questo qui è, diciamo che è decisamente un po' più horror, no? Cioè, il gioco è più, non mancano le battute, non mancano le cose simpatiche. Proprio l'altra sera vedevo un gameplay, per esempio ci sta una telefonata e l'ho scritta io e mi sono messa a ridere, per dirti, no? Nel senso che ci sono delle cose che secondo me sono comunque molto divertenti, però ecco, non ci sono cose tipo una cosa che l'hobby ha apprezzato molto, che sono le battute su le battute sui libri, eh? Quello era un omaggio proprio anche comunque alla Lucas d'altri tempi, perché rifaceva comunque la libreria, c'era anche in Monkey Island 2, è stata ripresa anche in Timberwood Park, però cioè, non lo so, per me quelle battute, sa che molte erano anche molto locali, nel senso locali delle nostre parti, perché entrambi siamo le stesse origini, abbiamo le apprezzate maggiormente. Poi quando anche sentirle anche riadattate in inglese, secondo me l'adattatore ti ha bestemmiato, ma l'hai detto tu che ti ha bestemmiato un casino. Però ha fatto un gran lavoro. Sì, infatti, perché c'avevo questa doppia chiave di lettura, cioè io ogni elemento, ogni libro l'ho ripreso due volte, li facevo così, prima per stare meglio in italiano e poi in inglese. Poi, come hai detto, adesso sta cosa qua forse sarebbe stata eccessiva per il secondo gioco, è un pochino più plumbeo, diciamo. Il tono qui è una cosa che non avrebbe funzionato. Avrebbe stonato. Sarebbe stato. Cioè, ci sono personaggi troppo, che ne so, c'è l'archivista che è sorda e comunque ti fa fare una risata, ci sta la telefonata in cui interpreti vari personaggi con alcune frasi che mi hanno fatto molto ridere. Però vedrai questo qui, diciamo. C'è Gianni Morandi. No, però se potete, quando telefonate alla Derletson, scegliete anche quelle cose più improbabili, perché vi ritroverete qualche frase che vi mi farà ridere, spero, forse a me fa ridere, però io ho un umorismo un po' becero, quindi non lo so, magari a qualcuno, magari qualcuno sorge il naso, però beh, d'altronde sei becero videoludico, quindi c'è stanza. Sì, assolutamente. Cioè, io mi diverto, a volte mi diverto con poco, un po' come Desimo, no? Ah, io sono il maestro del divertirmi con poco, quindi cioè. E quindi c'è stata questa cosa, però il problema è che non sapevamo chi dovesse disegnare sto cazzo di gioco. Io cominciai a fare delle bozze degli sprite, e infatti molti personaggi comunque partono dalle mie bozze, okay? Però non volevo, siccome volevo una risoluzione più alta, non volevo disegnarlo io, perché di base non sarei stato in grado di disegnare sfondi già al doppio della risoluzione, dove le cose diventano un po' meno immaginate, diciamo. Molte cose io del primo gioco le ho disegnate pixel by pixel, cioè proprio mettendo un pixel dopo l'altro, non facendo linee, non so se dice, no, no, ma è chiaro, sì. Tac, tac, tac. Sì, sì, sì. Io l'avatar che vedi l'ho fatto pixel by pixel, l'avatar che vedi in, ma già l'avatar tuo pixel per pixel è già una cosa ultra dettagliata, no? È cioè, bello, lui... ma disegni in pixel art? Sì, avevo iniziato, ho fatto quell'avatar che è venuto pure, è bello, e poi bello, ho smesso. Poi sei rotto il cazzo. Infatti dopo mi faccio passare qualche tutorial, che qualche cosa, cioè, comunque mi può servire, mi piace, quindi dopo ne riparliamo. Va. Berto ti ingaggia poi. Io subito ingaggio. E comunque è stato, Giampa, tu devi raccontare l'odissea che è stata cercare di pagare qualcuno. Tu mi devi dire. Oh no, Giampa. Pagare o oppure trovare qualcuno? No, cercare qualcuno e poi tentare di pagarlo. Era diventato un'odissea, ti ricordi? Sì, diciamo che la cosa più assurda che è capitata è quella di dover discutere con una persona non sul lavoro, ma sul fatto che non si riusciva a trovare un modo di pagare una persona. Cioè, nel senso che qualsiasi forma, e sottolineo qualsiasi forma di pagamento, aveva un problema insormontabile, e quindi alla fine ti trovi davanti uno scoglio che è quello, cavolo, ho trovato la persona giusta che può farmi il lavoro al prezzo che abbiamo deciso, ma fa problemi sull'essere pagato, e non voleva neanche lavorare gratis, giustamente, quindi fondamentalmente no, aspetta, permettimi di tradurlo per capire se ho capito. Cioè, tu trovi una persona, sì, per fare un lavoro alle condizioni che a voi, sì, stavano bene, perché, sì, chiaramente le risorse, sì, erano quelle, però non voleva essere pagato in un certo modo, perché sennò magari gli risultava. Questo tu mi stai dicendo? No, quello era l'ultima spiaggia. Cioè, in maniera legale non voleva essere pagato con la partita IVA per un problema, con la prestazione occasionale per un problema. E quindi che voleva? I soldi in mano? Scusa, fammi capire. No, neanche andava bene. Neanche bene. In ultima istanza, senti, veniamo dove sei tu, a Roma, ti diamo i soldi in mano. No, non andava bene, perché era ovviamente illegale, ma lui ci ha costretto a arrivare a quel piano lì, che poi non ha accettato, ovviamente. Quindi non avevamo sostanzialmente nessun tipo, aveva dei problemi a prendere soldi. Poi il motivo reale non l'abbiamo mai capito, cioè non è che era chiaramente una cosa trasparente il fatto per cui lui non poteva accettare soldi, e là troppe tasse, qui non va bene, e là no, il commercialista me lo ha sconsigliato, detto, cioè non abbiamo più idea di come pagarti. Quindi dopodiché non abbiamo concluso la frase persona. Era non abbiamo mai avuto tanti problemi a pagare qualcuno. Quindi questa cosa si riferisce a un, non in generale, cioè è stato un evento, una situazione, insomma, un contesto. Sì. Perché io l'Umberto che conosco io gli avrebbe detto quanto mi hai rotto i coglioni, perché, insomma. Ma gli abbiamo detto. Ma poi però è andata a buon fine poi la cosa, oppure no? No. Allora, no, non è andato. E quindi sostanzialmente questo ci ha messo in moto per cercare altre persone, ma io, credimi che ogni singola persona, senza fare nomi, aveva un problema. Cioè, un problema per cui anche dopo aver iniziato a lavorare non poteva continuare a lavorare con noi. È stato un casino. E questo, scusa, ti interrompo un attimo, sì. E questo mi ha detto tanto del perché poi l'Italia funziona così. Beh, il motivo per cui non esiste un'industria, anche, cioè nel senso, perché se tu vedi, cioè, quando tu pensi a un settore economico, no? Quindi anche che noi possiamo chiamare industria tra virgolette, esistono comunque le grandi imprese, esistono le medie imprese, esistono le piccole imprese. In Italia, secondo me, in settori come questo la piccola impresa non può esistere, perché cioè, nel senso, se vabbè, mo mi stai a raccontare una cosa che io non sapevo e neanche mi sono mai immaginato, cioè nel senso, però veramente. Tra l'altro questa persona che ti ho detto aveva fatto una buonissima prova, anche questa persona avrebbe dato un buon apporto al progetto, perché no, Giampa, ti ricordi la prova? Io ce l'ho ancora conservata, la prova era, sì, ora, era ottima, la prova era validissima, la prova, ma infatti non era il problema della, cioè lui forse era uno dei migliori che avevamo trovato in ogni caso, sì. poi abbiamo trovato altre persone e con ognuna di loro è stata un'avventura. O no, Umberto, cioè con ogni grafico io questo sto dicendo, cioè pare sì. Che anche ragazzi, quando non puoi pagare e c'è un problema, ok, ma quando puoi pagare e c'è un problema c'è qualcosa che non c'è, cioè, certo è una questione pure culturale, secondo me. Vabbè, comunque dai, poi devo dire la verità che noi non avevamo grandi budget, nel senso che tutti quanti i soldi che noi abbiamo speso li abbiamo spesi perché erano venuti dal Kickstarter, fondamentalmente, cioè noi non ci siamo ancora ovviamente ripagati di nulla, inizierà ora a ripagarsi, e questo qua è uno dei problemi anche della industria dei videogiochi, nel senso che lavori per tanto tempo, non hai assolutamente la certezza del risultato finale, e però ci lavori e quindi poi esci e se hai fatto bene le cose, ma non soltanto quello, perché puoi fare bene un gioco è tipo il 30% di quello che devi fare. E se ti va bene poi ti ripaghi, ovviamente va bene, quindi hai soldi per fare un altro gioco, però è come il cinema e infatti dovrebbe avere sostanzialmente gli stessi finanziamenti che il cinema non ha, cioè nel senso che ne ha pochi, ma comunque non ha neanche quelli, cioè si trova ad avere dei cicli lunghissimi, perché ovviamente come nei film, nei giochi ci metti anni a farli, e poi non hai assolutamente la certezza del risultato. Non è che io voglia avere la certezza, però sicuramente in molte nazioni, ma non in America, andiamo anche in Inghilterra o in tante altre parti, ci sono le tasse, le game tax, cioè paghi molto meno. In Inghilterra paghi il 5% di tassa, c'è la game tax in Inghilterra, e così in tante altre parti d'Europa fondamentalmente gli sviluppatori se ne vanno, perché in Italia, se vuoi pagare le tasse come le altre aziende, non sei un'azienda, diciamo, che dovrebbe agire in altri modi. E questo qua è uno dei motivi per cui la stragrande maggioranza, se non il 98% delle aziende in Italia che fa videogiochi, fa tante altre cose, quindi fa videogiochi per passatempo a un certo punto, no? E noi non vogliamo diventare un'azienda o un team che fa videogiochi per passatempo perché fa altri progetti per mandare avanti l'azienda. E purtroppo noi siamo come gli spartani, cioè una volta che vanno in battaglia o tornano sotto scudo o con lo scudo, cioè nel senso che non è che c'è una via di mezzo, quindi anche ora c'è il rischio che dopo questo gioco pubblicato, signori, se va male qua si chiude baracca, non è che si sta tanto a dire altro, fondamentalmente. Si relega ad hobby. Si relega ad hobby, ovviamente, con altre diciamo impegni, ovviamente. E quindi c'è tanta difficoltà in Italia a fare questo tipo di industria, c'è tanta difficoltà a trovare le persone, e le nostre odissee sono partite appunto con il reparto grafico, perché vogliamo ricordare Giampa, anche... Le persone non vogliono lavorare, si lamentano tanto che non c'è lavoro, quando le vuoi far lavorare si tirano indietro. Io a un altro ragazzo gli avevo chiesto di occuparsi dell'interfaccia, mi servono delle cose per l'interfaccia per non occuparmene io. Un ragazzo che sta continuamente a lamentarsi e non me l'ha fatto. A un altro ragazzo che sta continuamente a lamentarsi, gli avevo detto di provare a fare la grafica del gioco. Un ragazzo di Salerno come noi. Dopo 3 mesi ancora non mi aveva mandato neanche la prova. È sempre il gioco. Vogliamo parlare del tuo ex socio? Vogliamo parlare del tuo ex socio? No, vabbè, di lui non voglio parlare. Lui ha fatto una scelta sbagliatissima dal mio punto di vista, però ha fatto una scelta. No, ma come scelta? No, no, ma io non dico che. No, no, io no, non è che sto dicendo che si comportava male o cosa, nel senso che ha fatto una scelta fondamentalmente bizzarra da un certo punto di vista. Cioè, quindi ovviamente dettata dal fatto che l'Italia ti scoraggia anche il lavoro come comunque qualcosa che non puoi rinunciare, però diciamo che ci sono poche persone che ci credono in Italia, che magari oltre a crederci poi ci mettono anche l'impegno in maniera continuativa, perché quello che vedo io anche nel nostro team è successo che un sacco, qualche persona a un certo punto ha mollato per motivi più disparati, insomma, no? Non voglio neanche andare nel dettaglio del motivo. A volte anche senza motivo, almeno per motivi. A volte anche senza motivi, persone che a metà progetto ti lasciano e così, e ci sono cose che accadono. Secondo me un motivo c'è, però. Secondo me il fatto che questo gioco non doveva essere fatto, cioè in questo gioco c'erano i grandi antichi, che c'era, cioè, un gioco maledetto di per sé, quindi era Cthulhu che non voleva l'esorcista, che poi si è detto che poi quello è morto, che sono quasi morti tutti, quello è morto, quello è sciancato, questo qui è ancora peggio degli, qua si parla di Cthulhu, di Nearlado, era l'umanità con sé, dai. Con sé. Allora, quindi c'era qualcosa che stava cercando di impedire che questo gioco fosse fatto, fosse realizzato. Posso prima di interrompervi ancora, una cosa molto tecnica, diciamo, una cosa mi sono sempre chiesto. Uno sviluppatore indipendente, tu Umberto, che codice Ateco hai? Cioè, il tuo codice Ateco della partita IVA, che cosa dice? Che cosa devi appoggiare? Perché sicuramente non esiste in Italia game designer o roba del genere, cioè è roba che forse fra 50 anni introdurranno. Libero professionista, altro. Lo so. Vabbè, ma questo vale per tante categorie, però. Vabbè. Cioè, nel senso, sì, è giusta l'osservazione di Francesco, ma voglio dire, non è che ci stupisce, insomma, anche perché a volte, cioè, fino a 15 anni fa facevo fatica pure io a trovare, no, determinate cose, no? Quando mi ricordo che una volta a un modulo che mi serviva, non mi ricordo per che cosa, ci ho dovuto scrivere benestante, cioè, nel senso. Benestante. E vabbè, dai, comunque al di là di questo è interessante, sì, io penso che ci sono dei limiti, è interessante perché hai aperto comunque un capitolo che andrebbe esplorato, anche perché, come dici te, il vezzo dell'essere il professionista nel fare la X cosa in questo tipo di settore ce l'hanno tutti, sono tutti gran professionisti, però che merda, in Italia non c'è sta il lavoro per fare sta roba, quindi tocca, e in realtà poi alla fine magari, cioè, te basta semplicemente farlo quando ti viene chiesto e vedi che già qualcosa lo fai, no? Cioè, se non altro ti fai un portafoglio, no? Cioè, nel senso, questo che è importante, se tu quando arriva la gente dice, cioè, che hai lavorato, no, alle cose mie, e che cosa hai pubblicato, niente, per esempio, no? È assurdo, questo assurdo. È per te è un neo, no? No, significa non trovare lavoro, nel senso che qualsiasi progetto che non è pubblicato semplicemente non esiste, ragazzi. Cioè, nella industry, se tu dici ho fatto un progetto e dopo 2 anni non è uscito, è come non aver lavorato per 2 anni, ragazzi. È uno dei problemi questo qua. Quindi lavorare a cose mie vuol dire non aver lavorato, perché non c'è nulla che attesta il fatto che tu sia riuscito a fare un progetto compiuto, che abbia avuto un senso di mercato e che sia stato pubblicato, anche se poi non ha venduto, non ha importanza. L'importante è pubblicare i progetti. Questo è uno dei motivi per cui uno va all'estero, perché all'estero te ne torni dopo 2 anni con un portafoglio di 10 giochi, perché pubblicano un sacco di cose. In Italia siamo una lentezza biblica a fare le cose, e non nascondo che a noi tutte quante questi, diciamo, professionisti tra virgolette con cui abbiamo avuto a che fare in generale ci hanno fatto rallentare di almeno 6-8 mesi, perché poi non è soltanto la persona che se ne va, ma anche risolvi il problema, trova una nuova persona, inserisce, beh, certo, team, certo, certo. Spiega una persona che non c'è mai stato dentro, spiega da zero cosa deve spiega fare, soprattutto. È una quantità di tempo immonda, che poi io comunque se io dovessi fare un ragionamento da imprenditore da questo punto di vista, e comunque sto mettendo su un team dove mi serve un grafico 2D o un grafico 3D, e vedo tutti questi bei ragazzi gagliardi e tossi con un portfolio con bello cicciotto di cose che si sono fatti a casa loro in tutta tranquillità, e gli chiedo: sì, ma nel tuo curriculum in quali sono le aziende in cui hai lavorato? E vedo: non hai lavorato da nessuna parte. Io non avrò mai la possibilità di sceglierti, perché comunque io non so se tu in team sei capace di lavorare, se sei in grado di lavorare in determinate tempistiche. Cioè, voglio dire, è l'esperienza lavorativa quella che fa la differenza, a meno che tu non cerchi una persona di primo pelo perché dici vabbè, la metto lì e faccio fare lo stagista, è un altro discorso. Quindi è un po', cioè, è un po' imbarazzante questa situazione. Mi piacerebbe, perché poi noi ne abbiamo parlato tante volte di questo ambiente, di questa situazione, e alla fine ogni volta esce fuori sempre qualcosa che mi stupisce. Io penso sempre, dico vabbè, vedi, mo l'ho sentite tutte, invece non c'è mai. Io ti dico ci abbiamo messo un anno a trovare chi disegnasse. Lo so, immagino. È interessante. Cioè, io ho cominciato nel frattempo, ho iniziato a limare l'interfaccia, a cambiare un po' di cose, a vedere se alcune cose funzionavano, ma è comunque stato un anno di stallo in ogni caso. Che poi diciamo che insomma ti sei dovuto anche, non so se ti sei barcamenato anche nello scripting, ma nella grafica alla fine, laddove non arrivavano l'altri arrivavi te, insomma, perché vabbè, ma non ti nego che molte animazioni di questo gioco o alcuni sprite, alcuni oggetti sono miei, non è tutto di Andrea, soprattutto le animazioni, io ne ho fatte tante. Poi è entrato Matteo Parente dopo, un ragazzo che ci ha dato una mano sul finale quando Andrea è andato via, che ha fatto un sacco di bella roba, a dire la verità. L'avessimo trovato molto bravo, è un ragazzo serio e giovane, cioè giovane ma molto serio, molto bravo. È stato per dirti, no, però cioè, è stato un anno di io non sono disegnatore, io più di tot non posso andare, cioè, capito? Se vuoi fare il level up, no, ma è quello, ma è anche giusto che ci sia, cioè, no, le figure, cioè, se no siamo broni tutti a fare tutto e nessuno è buono a fare niente, perché poi è un po' questo il senso, no? Poi se c'è il creatore, il direttore o comunque il direttore artistico di un progetto, si deve occupare di dirigere fondamentalmente e di fare in modo che le cose siano per come nel suo immaginario, no? E quindi alla fine, se si deve occupare anche di ogni minimo dettaglio, sì, ma non in senso di esecuzione, cioè, quindi diventa un po' complicato. E poi vabbè, io l'ho visto insomma anche al bar a smadonnare, perché c'era magari sul layer trasparente c'era un pixel a caso che non c'entrava niente, insomma, quindi succedono le cose, succedono, sì, cioè, sì, nel senso, alla fine c'è sta, però ecco, nel momento in cui tu dici io ci provo a fare il passo avanti, però se quello che è intorno non viene dietro, diventa complicato, insomma, fino a che, come dici te, è un'opera amatoriale, divertente, stiamo lì, giochiamo, sti cazzi. Cioè, no, sti cazzi no, però comunque è un po' più sti cazzi, diciamo così. Quando invece diventa una cosa un po' più importante e c'è magari anche l'investimento economico, allora sì, diventa un po' più fastidioso. Mi sono trovato a parlare con una persona, insomma, che non condivideva il mio modo di vedere le cose, e a un certo punto ha detto ma evidentemente quando fai certe scelte è il culo parato, è come a dire c'è le spalle coperte. Sì, no? Sì, no, il culo parato è chiarissimo. E io voglio spiegare, e Giampaolo sa, amico mio, non è proprio questo il caso. Io sono abbastanza in ristrettezze economiche per aver scelto di fare questo gioco, cioè, capisci, a un certo punto quando poi la scelta diventa così, diventa una scelta importante, diventa una scelta di vita, ok? Io adesso ho due figli, ma sai perché ti dico questa cosa? Perché la persona che ha abbandonato il progetto non lavorando più, ok, aveva detto che io volevo avere ingerenze o a che dire o a mettere bocca sulla sua vita e come faceva le cose, perché semplicemente non stava lavorando. Se prendi l'impegno di lavorare, lavori. Certo. Ok. Cioè, se io ti telefono e ti dico com'è che non hai lavorato, ah, tu mi stai invadendo la mia esistenza. Esattamente così. Sì, questo. Ti voglio dire, grande sciocco, perché sciocco, tu ti rendi conto del ritardo che hai fatto fare, tu che ingerenza hai avuto nella mia di vita? Allora, io ho insistito molto nel continuare a parlare. Voi sapete che noi sto gioco lo... per quello che purtroppo poi possiamo fare, perché poi i bacini d'utenza sono quelli che sono, e l'abbiamo sponsorizzato sempre, da sempre facciamo gli spot, andiamo a rotazione, ne parliamo, ho fatto l'intervista a Umberto che ancora non ho pubblicato, però va bene, comunque abbiamo già parlato del primo gioco, abbiamo già parlato del secondo gioco, ma per una ragione è proprio effettiva, l'ho già spiegato all'inizio, no? Nel senso, sul mio rapporto con gli sviluppatori in generale, però conoscendo Umberto, Quando le persone diventano delle persone che cominci a considerare amiche, cioè che comunque alla fine diventano annoveri tra le persone che hanno un'importanza, e che poi è diventata anche un'abitudine incontrarsi quando saliva, scendeva, roba del genere, alla fine tu dici, cioè, la scelta è, in effetti poi capisco che lui si possa incazzare, cioè mi dà fastidio a me che non c'entro in niente, figurati. La scelta di fare di provare a fare una cosa mettendo, diciamo, rendendo la vita complicata a quelle che sono delle situazioni di vita reali, no? Cioè, nel senso, è come dice lui, alla fine c'è una moglie, due figli, però lui ci ha provato, no? Cioè, ci sta provando, no? E alla fine, se tu non rispetti manco sta cosa e poi dopo c'è pure da Dio, fai un commento, roba, già sei un cretino, cioè, nel senso, ecco, allora questo progetto va sostenuto già solo per questo, perché è il coraggio. Uno dice: è l'incosciente, va bene, quello che sì, lo so. Ci sì, sta, lo so. Ci sta che uno possa pensare una cosa del genere, perché oggettivamente può essere, ma è la sua scelta, cioè nel senso, non la condividi, guardi dall'altra parte, ma comunque va sempre sostenuto, cioè nel senso. Quindi ecco, andate a comprare sto cazzo del gioco. Che metteremo i link. Comprate. Francesco, c'hai qualche domanda? Non sto ancora comprando. No, noi l'abbiamo comprato il gioco. Poi dopo. Sì, anche io. Cioè, nel senso... io. Dopo mezz'ora dal rilascio già l'avevo comprato. Sì, sì, grazie ragazzi. Gianpaolo, tu hai da aggiungere qualcosa su questo? Sto cominciando. Sì, lasciate una bella recensione perché l'avete comprato. Prima lo finiamo, magari. Sì, o perlomeno giocarci qualche ora. Sì. No, in realtà avete detto quasi tutto. C'è molto bella recensione, in realtà, però scusami, Gianpaolo, ti ho interrotto. No, questo è vero. Poi, insomma, è normale che i primi giorni non ci sono recensioni perché la gente deve giocarci. Però vi dico alcuni numeri insight che sono interessanti. Ovvero, comunque... no, ho detto che ci sono già delle belle recensioni. Già più di una decina. Sono poche. Sono poche, però. Di una decina. Sì, almeno 10 nell'arco dei due giorni, non so mica poche. Però dico io ce l'ho anche in inglese, in italiano pochissime, forse l'ho letta più in inglese di recensioni, ecco, un bel po' di recensioni. Sì. Comunque abbiamo avuto alcuni picchi in questi giorni davvero interessanti, a cui ovviamente non eravamo abituati con il vecchio gioco. Siamo stati tra i giochi più venduti, per un momento stavamo in alto, com'è il fatto? È tutto merito del Runtime Radio questo. Una cosa interessante erano anche i giocatori unici giornalieri e anche i giocatori in contemporanea. Abbiamo raggiunto anche picchi di 20-30 persone in contemporanea e 60-70 persone uniche in un giorno, che comunque sono bei numeri per la tipologia di gioco, per il fatto che è un team indie. L'ho messo e di comunque... nome nel bustone. Francè? Il bustone? Da posto, no, vai, stavo a parlare delle cose loro. No, per sbaglio avevo staccato il microfono mentre non dovevo parlare. Scusate. Ah, ok, no, pensavo che il gioco era... Perdonate la gaffa, ragazzi. Era già era nel grande boost. No. Stavo chiedendo a della gente dove erano dei cuscini in casa, però tutto a posto. Scusami, Gianpa, scusa. Okay, quindi... No, no, no, tranquillo, mi fa piacere che sapere che i cuscini sono nel bustone. Quindi, quindi quando verrò so dove prenderli, insomma. Diciamo. E finché ci sono dei cuscini e non delle persone, puoi fidarti di me. Esatto, esatto. Ok. Oppure una cosa interessante, un modo in codice di dire, di parlare della gente. Vabbè, mo però facciamolo parlare. Giustamente. Vai. Una cosa interessante che poi di riflesso il gioco in questa settimana qui si è tirato anche con il Wismut, nel senso che dopo anni, davvero non succedeva da anni, abbiamo venduto tante copie a prezzo pieno. Cioè di solito ormai... non è mai successo, manca al lancio. Neanche al lancio. Cioè sostanzialmente abbiamo venduto Chronicle of Innsmouth a prezzo pieno. Cioè io ho detto, non è possibile. Pure ecco, io però su questa cosa vi voglio segnalare una cosa che io considero un problema. A parte il fatto, ragazzi, che va fatta una recensione Erchiappa 1986 grande, uno che c'ha sto nick è un grande e c'ha tutta la mia stima, che tra l'altro ci ha giocato tipo 14.2 ore, insomma, quindi manca di che uno che ha scritto buttato una recensione lì. Erchiappa 1986, grande, grande. Volevo segnalarvi il fatto che se io sulla pagina di Steam clicco su Psychodev, appare soltanto il secondo gioco. Veramente? Yes, ma questo l'avevo già notato tempo fa e mi sembrava di avertelo detto, però probabilmente l'ho detto nella mia testa e non mi sono scordato di dirtelo. Però sì, è così, se tu clicchi ci appare soltanto il secondo gioco. Infatti questo, controllato. Questa è una limitazione che secondo me in realtà chi è curioso poteva andare tranquillamente a ciucciarsi pure il primo, insomma. Il che pare che sia successo uguale, però insomma sarebbe potuto succedere di più, ecco. No, ma è un problema, nel senso che non è normale. Mi ha fatto notare una cosa che non è normale. Sì, cioè, sia come sviluppatore che come editore. Cioè se tu clicchi in su, ho pensato che fosse una... Ho capito il perché. Perché secondo me sono due... Nel primo gioco, nel primo gioco come sviluppatore c'è Umberto Parisi, esatto. E Amedeo Battaturo, non c'è Psychodev. Ma dobbiamo cambiare subito. Sì, perché subito. Sì, perché è un peccato, devo dire la verità. Cioè, nel senso, io infatti la prima cosa che sono andato a notare era sta cosa, perché ho detto. Comunque lo stavo andando a prendere per prendere i link per mettere le note dell'episodio. E per praticità volevo prendere la scorciatoia e sono rimasto fregato. Insomma, comunque. Io voglio diventare amico di Erchiappa, ragazzi, perché lo voglio in trasmissione. Assolutamente. Però ecco, vabbè, l'ho trovato anche il primo gioco, ecco qua, a posto. Eh sì, è vero, però no, ma è proprio scritto diverso anche Psychodev come editore, perché Psychodev è con la D minuscola, mentre che sul secondo gioco è con la D maiuscola, quindi secondo me sono proprio due link diversi. Ve lo dico, insomma, verificate, controllate. Infatti su Psychodev c'è soltanto il primo. Ok, vabbè, vi ho dato questa cosa così in diretta, così avrete modo, insomma, di verificare. È importantissimo. Testing così online, visto e considerato che è la prima cosa. No, fatto bene, benissimo. E c'è il cuciniere dello spazio profondo che in chat dice: ma infatti, tanto di cappello a Umberto, tantissima ammirazione. Beh, ma ragazzi, mica che tutti nascono James T. Kirk nella vita, cioè, nel senso... Allora, ragazzi, comunque il prezzo basso è quasi mai una buona... Vabbè, ma ragazzi, non è che c'è un gioco che non può costare 40 euro, cioè, oggettivamente, no? Nel senso, andrebbe a entrare in concorrenza con giochi che hanno un altro spessore produttivo, con tutto rispetto per il gioco d'Umberto, cioè, nel senso... È una cosa... Vabbè, ma che giochi che hanno anche un costo diverso, cioè, esatto. No, vabbè, perché giustamente qui Lovecraft dice: ragazzi, comunque il prezzo basso quasi mai è una buona cosa per il marketing. Sì, in generale sì, se stai a vendere una cosa che vale 50 la vendi 15, sì, ma se stai vendendo a un prezzo giusto quello che è il valore del prodotto, che magari è, ci può anche stare. Anzi, ecco, forse c'è il discorso del 10% di sconto al lancio, che lo fanno tutti, e quello, insomma, ci può stare. Quindi non ho ben capito questa affermazione, ma non è che... No, forse lui si riferiva che non nel caso di Umberto, cioè mettere giochini in generale, prodotti che costano poco, il giocare al ribasso, in realtà così euristicamente una persona dice così faccio... cioè vendo di più perché faccio più concorrenza alle altre persone, perché vendo più cose meno. In realtà quello che viene percepito dalla gente, questo perché un pochino di marketing, ma un pochino ci ho studiato un pochino di marketing per cercare di promuovermi a fatica, è il fatto che se setti una cosa troppo bassa la gente pensa che banalmente se un cialtrone, cioè non vale la spesa, è una cinesata, volendo usare un gergo. Ma io spesso Giampaolo parliamo di questa cosa e diciamo che se sei prima tua a svalutare il tuo prodotto, sì, vai a svalutare la tua professione, non vedo perché debbano dargli valore gli altri, e questa è una cosa vera. Ok, comunque Lovecraft dice bravo Francesco, quindi hai capito tu, io non avevo capito, va bene, ci sta che non capisco, ragazzi, non avevo capito, e quindi, mentre che invece c'è Zadok che vuole sapere, Umberto, se tu gli dai il gioco le scambi per due bottiglie di rum, cioè ma è Zadok dovrebbe darmi lui qualcosa. Ah no, allora è lui che ti dà due bottiglie di rum, forse. Boh, non lo so, vabbè, non lo capisco. Comunque ce ne frega un cazzo. Gli dovrei dare io le bottiglie di rum a lui. Ma attenta che poi passa Shatner e se le fotte lui. Shatner solo il barbon. Bourbon. Esatto. Vabbè, ragazzi, io direi che... Francesco, c'hai curiosità, domande, cose? Sì, delle curiosità, più o meno sullo sviluppo, più che altro degli aneddoti, diciamo. A volte, diciamo, quando si sviluppa qualcosa, magari ci si tiene, inevitabilmente si fanno dei sacrifici, magari ci si affeziona a qualcosa, però si sacrifica. Ecco, volevo dirti a te, Umberto, la cosa, diciamo, che magari hai sviluppato tu con mano, soprattutto mi riferisco soprattutto giustamente all'ultimo gioco, che davvero quasi dal primo momento, cioè l'hai partorita, l'hai generata, l'hai fatta crescere, era quasi pronta e poi all'ultimo hai deciso che non ne valeva più la pena, che non si incastrava bene, quindi magari anche con dolore l'hai cassata. Cioè un elemento, un qualcosa, poi ti chiedo un'altra cosa. Allora, ci sono c'è qualche minigioco che ho cassato, cioè nella parte finale c'era un fatto un po' più arcade, che addirittura a un certo punto stava diventando quasi uno strategico a turni. Dai. di cui ho ancora il codice, che poteva essere carino, però poi l'ho abbandonato. E sì, questa qua è la cosa che mi brucia un po' di più, tra virgolette, perché avrei voluto farlo. E poi che cosa... Beh, puoi sempre fare lo spin-off col combattimento a turni. Ah, sì. A parte questi spin-off, dopo gli voglio chiedere una cosa per andare a concludere. Sì. Vai. Continua, e poi c'era un cameo del personaggio del primo gioco che non ho inserito, ma non ho mai realizzato. E poi c'era un qualcosa in più sul finale che ho deciso di togliere, perché se ne sembrava che se no la cosa andasse troppo per le lunghe, perché già così siamo comunque tra le 8 e le 10 ore di gioco, quindi credo che siano abbastanza per un'avventura grafica in qualche modo. Non so, questo si chiama un, a parte che di necessità si fa virtù, comunque un gesto, un comportamento quasi che comunque che si è maturato comunque come creatore, quindi, perché a volte si fa fatica, ti ci affeziona tanto a una cosa che la vuoi mettere per forza, ma poi non c'entra, cioè invece riconoscere che cazzo sta cosa qua non ci azzecca quasi più, cioè è dolorosa a volte, immagino. C'è da dire che a volte devi provarle le cose per capire che non funzionano, non sempre l'idea va bene o la progettazione, cioè a volte la realizzi e non funziona, devi avere il coraggio di buttare, ecco. Sì, alla fine non è buttata, perché nel momento in cui l'hai realizzata ti sei accorta che non ne valeva la pena. Nel momento in cui, se non l'avessi fatto, sarebbe sempre stata però magari avrei voluto fare sta cosa, non ce l'ho più. Vabbè, poi fa parte di tantissimi processi creativi, cosa, cioè nel senso c'è sta uno, sperimenta, prova. È normale. però invece, quasi da contraltare a questo, la cosa che ti ha fatto più bestemmiare proprio, che alla fine proprio se sei soddisfatto, allora la cosa che hai portato a termine con più soddisfazione, che proprio non ne voleva capacitare di uscirne fuori bene, e poi alla fine Hey, Motion Comics, di questo ci può parlare Giampaolo, vedi? Vai Giampaolo. Ma i Motion Comics sono stati un po' un cadeau che abbiamo fatto ai nostri backer per una serie di ragioni, perché abbiamo dovuto allungare le tempistiche di uscita del gioco per diverse ragioni, alcune di queste ne abbiamo discusso prima. Sì. E poi a un certo punto abbiamo deciso di inserirli, ma alla fine dei conti c'è un problema di base, che Adventure Game Studio AGS, essendo un engine diciamo vecchio, mettiamolo in questa maniera qua per fargli un complimento, non ha una gestione dei video fatta bene, quindi è stato un parto sotto ogni aspetto, perché il plugin ad esempio che abbiamo trovato per gestire video semplicemente non funzionava, era buggato, quindi il primo plugin che ho utilizzato, dopo che ce ne siamo accorti tardi, dopo che partiva un video si eliminava dal gioco il rendering di tutte le animazioni specchiate, cioè se il personaggio girava a sinistra, perché solitamente quelli là che non hanno doppia faccia faceva moonwalking, poi la camminata no diventava spariva, certo. Era invisibile, sai, sì. Quando non la trovi non è che era frizzata, semplicemente spariva, però se riavviavi il gioco c'era, se salvavi, certo. Riavviavi il gioco c'era, era, sai, come quando quei medicinali che sono i, diciamo, i side effect, no? Gli effetti collaterali, cioè, funzionava benissimo come plugin, ma come effetto collaterale faceva scomparire le animazioni specchiato, che ma non senso tra l'altro, quindi alla fine siamo approvati su questo ultimo plugin video che alla fine dei conti ora dà comunque dei problemi. Allora, l'unica vera soluzione per i Motion Comics è stata e sarà quella di fare il passaggio del gioco completamente in Unity, quindi comunque a breve poi sostituiremo la versione di AGS con quella di Unity, che tra l'altro ci permette anche, qui lo annuncio per il futuro, di esportare il gioco per altre piattaforme, certo. Come Switch, come iOS. Quindi state facendo un porting del gioco direttamente su assolutamente sì. Ah, beh, questa è una cosa buona. Assolutamente sì, è proprio se ne sta occupando Andrea Novati ed N3 già da un po', cioè già è un annetto che collaborano con noi, o no? Più o meno, sì. Sì, diciamo che comunque lui deve aspettare che il gioco diciamo dove essere chiuso ovviamente per fare tante cose, certo. Comunque lui è a buon punto ovviamente di sviluppo. Ma ad esempio domanda tecnica, cioè se questa cosa poi quando verrà finalizzata, chi su Steam ha la copia vecchia rimane con la copia vecchia? No, ma la diamo a tutti. No, era per sapere. Aggiorniamo la brand. Ma okay. Vedi che anche col primo l'abbiamo fatto, cioè io il doppiaggio l'ho fatto con i soldi ricavati dalle prime vendite, certo. Il doppiaggio del gioco che non c'era. E l'abbiamo poi aggiornato per tutti quanti. No, non farei mai ripagare qualcosa. No, ripagare no, però dico se magari, cioè, se era tecnicamente fattibile cioè il fatto che tu comunque su Steam c'hai il gioco, quel gioco lì, e se poi dopo alla fine la versione magari nuova fatta con Unreal, che magari aggiunge i filmati meglio, roba del genere, se con questa cosa si riagganciava, questo volevo sapere, insomma. Noi possiamo anche lasciarli tutti e due, cioè si aggiunge un altro eseguibile che è la versione Unity, okay, lo scrivi con okay. Lo Vismount Mountains of Madness tra parentesi Unity e la okay. Gente può avviare o l'uno o l'altro. Ok, questo è interessante, ok. Non ero curioso perché vabbè, nel senso poi piace poi seguire anche come evolvono le cose, no? Giustamente. Ma noi passeremo a Unity, cioè a GS adesso viene messo in pensione. Beh, ma anche giustamente io penso che con lo sforzo che tu hai fatto, oggettivamente il tool ha raggiunto il massimo del... Ma tu lo sai che la versione... Allora, ti spiego questo impasse in cui eravamo. Ti ricordi quando bestemmiavo che cresciava, sì, che non sì, si capiva? Sì. Praticamente... non potevamo passare a una versione successiva perché quel plugin dei video non funzionava, e nel frattempo non potevamo restare in quella perché più di 2 GB del pacchetto di sprite, sfondi e tutto il resto, cominciava a perdersi le animazioni per strada. Hai capito? Sì, no, io lo sapevo sta cosa, però hai fatto bene a raccontarla, perché noi tante volte abbiamo parlato negli anni dei vari tool, engine, framework di sviluppo, insomma, anche quelli, insomma, quelli che possono essere, no, magari parzialmente alla portata, però è una cosa quando tu ti approcci a fare un piccolo progetto, è una cosa quando poi la tua ambizione si estende, devi per forza andare su strumenti più adeguati, no? E quindi tu, vabbè, ma tu già strumenti moderni in continuo divenire, cioè io mi sono rimesso su Unity nelle ultime due settimane, cioè effettivamente è una bella, cioè è una, per alcune cose anche lì si bestemmia alla grande, ma si bestemmia proprio alla grandissima. Però per certe cose è una boccata d'aria, perché vedi la modernità. Beh, no? Certo, certo. La flessibilità anche, no? Perché comunque la flessibilità, sì, stai scherzando. Cioè il poter cambiare una variabile in runtime mentre stai provando il gioco, aumentare la velocità del personaggio, cioè, che, per dirtene una, no? Può sembrare una cazzata, ma con AGS è follia, ti devi fare una funzione, mettere qualcosa a schermo per fare questa cosa, hai capito? Cioè, là invece ce l'hai lì, che ne so, c'hai la variabile velocità del personaggio e mentre stai provando il gioco l'aumenti di 10 per vedere se aumentate di 10 è meglio, per dirtene una, no? Cioè la cosa più stupida che mi viene in mente, però effettivamente è una flessibilità che AGS purtroppo secondo me andrà pian piano a morire, perché è il problema più grande di tutti, che non è portabile. Cioè, quello è, sì, no? Non puoi pensare oggi di fare un titolo e di non farlo uscire anche almeno per i cellulari, dai. Vabbè, ma in realtà è nato per quel tipo di avventure che hai fatto tu col primo gioco, e secondo me non c'ha l'ambizione di andare oltre, no? E poi probabilmente è anche vecchio come struttura, a meno che non fanno un refresh completo, diventa proprio complicato, no? Quindi magari sta bene quel tipo di nicchia di mercato che c'hanno, la gente appassionata di avventure vede il tool, se lo compra e loro si accontentano di quello probabilmente. Ma loro, ma quello è tutto gratuito, il problema è quello che non puoi neanche pretendere nulla lì, perché non paghi niente. Ah, è gratuito addirittura? No, tutto, perché io mi ricordavo che sì. Per esempio Wintermute là era a pagamento, se non mi sbaglio. No, è completamente gratuito. Ah, okay. E quindi non puoi manco, cioè, più che chiedere, raga, ma come si potrebbe fare qui? Cioè, non è come, cioè, un programma che tu paghi, dice, oh, mi serve questa cosa, non funziona bene, risolvetela, no? Perché giustamente stai pagando. Okay, certo, certo. Okay. Facevamo il discorso prima, no? Che ne so, per esempio, anche con piattaforme di podcast, no? Cose del genere. Lasciamo per senso. O anche con i server di streaming, diciamo anche. Anche quello che sia, insomma, cioè le cose che paghi, puoi pretendere qualcosa. Là dice, oh, che cazzo vuoi? Che questo vuoi? È. Questo è, certo. No, è vero. No, non lo sapevo che era gratuito, perché non mi ci sono mai, devo dire, approcciato. Cioè. Però posso dirti una cosa a te che interessa. Sì. AGS, per quanto dal punto di vista del linguaggio non può essere la cosa migliore del mondo, però è una buona scuola di problem solving quando devi, certo, fare qualcosa. Lo immagino. È proprio perché è gratuito e perché è molto terra terra nella gestione, cioè molto antico, quindi non è che devi conoscere perfettamente, cioè là scrivi. Secondo me può essere una buona scuola per imparare ad approcciarsi a fare un, certo, videogioco. Certo. Beh, considera che io comunque sono un esploratore, io li provo tutti, provo tutto, sì. Perché comunque ho sempre avuto la curiosità senza avere l'ambizione di fare niente, solo che adesso mi sono un po' infognato in Dialogo, che è l'italianizzazione dei Dialog, che è questo linguaggio per scrivere avventure testuali basato su Prolog, che è a sua volta un linguaggio di programmazione su base logica che è diverso dai linguaggi di programmazione quelli standard, no? E alla fine è come scrivere, cioè nel senso, Simone è il personaggio, Simone è il giocatore, Simone è in una stanza, la stanza a ovest vai, cioè, cominci da tutta una serie di... È come Quest, no? Sì, però Quest lo fai, cioè nel senso, lo fai costruendo le varie schede praticamente, invece lì tu lo fai, sì, proprio programmando, no? Cioè tu scrivi proprio in italiano il testo di quello che succede, la cucina, la stanza da letto, il bagno e la cameretta sono stanze, e lui, pum, vai a capo, lui ha memorizzato questa informazione. È figo come cosa, perché in realtà è un esercizio più, così anche lì, di logica, sapere imparare comunque un linguaggio che è diverso da tutti gli altri linguaggi di programmazione che si basano su una sintassi sempre più o meno similare, no? Perché poi alla fine, se vai a vedere, no? Cioè, nel senso, Python, C++, ovviamente hanno indirizzi diversi, hanno un modo di una sintassi diversa, ma poi la logica della programmazione è sempre quella, no? Cioè, nel senso, sì, più o meno è quello. Insomma, invece questo è proprio tutto un principio diverso, che è molto più simile a come si usava su Inform, che tu comunque è più discorsivo, cioè tu programmi facendo delle frasi, fondamentalmente. Ci discuti proprio col ci programma. Discuti, esatto. È figo, è figo, è figo. È sfizioso più che figo. Chiaramente la traduzione italiana è ancora in beta, anche se più del 91% è stato tradotto. Poi Leonardo Boselli ha praticamente creato questo sistema che poi lui, insomma, codifica nel linguaggio finale, in modo che alla fine poi esce fuori l'eseguibile. Però è interessante, è divertente più che interessante, insomma, perché poi dopo alla fine, ecco, c'è l'opportunità di non doverti, cioè, dopo che hai imparato la sintassi, diciamo che diventa più naturale, ecco, una cosa così. Volevo sperimentare questa cosa perché era da tanti anni che ne sentivo parlare del linguaggio di programmazione logico e non mi c'ero mai approcciato. Mo che ho capito di che si tratta, ci giocherò un pochino, poi me rompo il cazzo tante volte. Bene, Francesco? Bene, bene. Sì, no, è interessante pure. Fammi sapere pure a me, Simone, perché io ho qualche modo di impiegarlo anche dal punto di vista, diciamo, lavorativo. Lo trovi con i clienti, trovi, sì. Ce lo trovo interessante, me lo devo studiare. Da sempre dico che devo studiarmi una cosa del genere. Ancora non l'ho iniziato a studiare, quindi. Ma in realtà, guarda, secondo ci me. Tutte e due ci. Sì. No, no, perché prima devo trovare, diciamo, come devo familiarizzare e poi trovargli, certo, un impiego anche dal punto di vista. Ma guarda, secondo me, come funzione didattica, anche come esercizio, sì, come esercizio mentale, nel comunque anche nel rapporto del come si danno istruzioni alla macchina, cioè, secondo me di applicazioni se ne trovano a centinaia su queste cose. Poi è chiaro che ognuno la deve trovare nel proprio campo d'azione. Quindi non nel è proprio cuore. Sì, esatto, nel proprio cuore. Quindi non è solo il vezzo di fare solo l'avventura testuale, capito? Cioè, che poi dopo, inserendo anche altre variabili, comunque può diventare un'avventura testuale, gioco di ruolo, barra X, barra Y. Però, ecco, insomma, è divertente. Il mondo del mettersi lì, cimentarsi, è divertente. Come dice giustamente anche Umberto, provare dei tools gratuiti. Per esempio, io in questo momento, vabbè, non c'entra niente, mo ritorniamo ovviamente a Umberto, però non c'entra niente, però ultimamente. Però fatelo dire, anche Unity è gratuito, però. Sì, sì, sì. Io, sì, io uno sguardo glielo darei. Assolutamente sì. Unity, diciamo che per ora è molto al di fuori della mia portata, perché dovrei poi scegliere su quale tipo di tool aggiuntivo inserirci, perché sennò dopo dovrei proprio iniziare totalmente da zero. Ma anche Unreal Engine allora è gratuito, se vai a vedere, insomma, e alla fine sì, comunque sì, alla fine, sì. E c'è Godot, che invece devo dire la verità che mi sta stimolando, è sia 3D che 2D, si basa sulla programmazione in C, ma credo anche in Python, è quasi completamente progettuale visuale, si fa sulla progettazione a nodi, che è una cosa interessantissima che io già sono abituato a utilizzare nell'editing, perché DaVinci Resolve più o meno ragiona su quel criterio lì, ma non sì, soltanto, anche altre. Però poi dopo alla fine c'è tutta la parte di script che non è così complicata, insomma, c'è anche il suo script proprio interno che è derivativo sempre dal C e dal Python, quindi alla fine comunque sono sempre identici più o meno questi linguaggi, se vai a vedere, se non per le funzioni. E devo dire che anche quello è molto flessibile e viene utilizzato, ecco, vedi, sulla cosa che tu dicevi prima, Umberto, che tanti non c'hanno voglia di fare. Molti ragazzi giovani si imparano il sufficiente per fare magari i giochi per il mobile, no? Che tu dici, ah, bella merda, però intanto quelli si sono fatti un lavoro, in qualche maniera. Cioè, magari producono un gioco ogni 6 mesi, per dirti, e comunque questi giochi vanno lì negli store e comunque gli portano dei soldi. Cioè, Io... Ma come no, ma io li apprezzo molto, vedi che comunque fare un gioco che sia anche, che riesca a catturare, esatto, l'attenzione sul mobile non è, non è facile, scontata, esatto, sì, esatto, con la giungla che ci sta là sopra, ma stai scherzando? Assolutamente, soprattutto per il casual gaming, no? Eh sì, che è quello, la, che è la giungla più selvaggia. Gianpaolo che ha fatto scopa gratis, no? Gianpaolo ha fatto scopa. Gianpaolo ha fatto il gioco scopa gratis. Ma come? Allora, scopa gratis, secondo me, è un'operazione di marketing che veramente mi alzo in piedi e bah, cioè, perché, cioè... Era sì, perché già lo sto scaricando. Scopa gratis, grande. Comunque, Gianpaolo, non ci sei più? No, Gianpaolo non c'è più. Vabbè. Ok. È modesto. A cancellare, no, ragazzi, da tutte. Parlavo. No, scusate, c'è un problema con. Ah, ok. Ciao Francesca. Ciao. Sei svegliato. Vabbè, succede. Deve allattare la bimba, Gianpaolo. Scopa free. È scopa free, scusa. Ah, scopa free, ok. Vabbè, comunque, dai, il concetto è quello, dai, genio. Vabbè, Umberto, dai, diciamo, chiudiamo, diamo qualche informazione. No, volevo chiedere l'ultima domanda. Vai, come, cioè, no? Io già so più o meno su cosa ti sto orientando perché ti ascolto, diciamo così, però parliamo anche qua. Ovviamente Chronicle, cioè, la saga di Chronicle of Innsmouth non finisce con Mountains of Madness, continuerà, già in mente dei seguiti più o meno, e anche che non saranno necessariamente delle avventure grafiche, se ne vuoi parlare un po', perché mi incuriosisce sempre. Assolutamente, volevo dire una piccola cosa: il finale non è frettoloso, il finale è così come deve essere, così come è stato pensato, no? lo sapevo che l'avresti detto. Bravo. Non vi spiega tutto perché c'è, sì, un motivo, perché certo. c'è un motivo. Così come perché non vi spiegava tutto il primo. Il primo vi ritrovavate Lon che veniva preso e poi ve lo ritrovavate in cima al faro lì. E dici, ma come? Non era stato preso? Adesso sapete il perché con Mountains of Madness. Okay. Più che altro è il fatto che uno lo deve spiegare, è un po' così, insomma. No, vabbè, non perché, però voglio dire. E ritorniamo sempre un po' alle stesse cose, perché poi questa settimana è stata una bellissima settimana piena di eventi strani, quindi... No, però era per dire questa cosa, cioè, finale è così, a parte la parte che doveva essere in strategico a turni, che ho tolto perché in avventura non ci stava, il finale è esattamente, anche se mi ha messo una curiosità che non finisce mai, poi io con i strategici a turni, lo sai, sono un po' invasato, quindi... Lo so, però sono molto complicati. Ne avevo realizzato una parte, ma poi ho pensato: ma uno che si sta giocando un'avventura, che poi sapere, sì, come va a fare la, certo, storia, veramente si vuole rompere il cazzo con questa cosa, è vero. No, anche come perché fa la stessa fine, come si chiama quel gioco? La Brutal Legend, che, sì, alla fine, sì, è uno, sì, strategico. Io infatti l'ho lasciato perdere. Perché a un certo punto, no, diventa RTS, cioè uno strategico in tempo, sì, reale. Sì, è tempo reale. Sì, è una cosa assolutamente... È perché poi dopo, quando sei entrato nel mood di un gioco, cioè nel senso stai a giocare quel gioco lì, cambiare così radicalmente tipologia, cioè una cosa è metti una parte action tipo come Full Throttle, allora ce lo sta, o come magari il primo Chronicles of Innsmouth. Non ce la farò mai, fai ridere che lo dici sempre, chiudi sempre perché, perché mi si blocca il cervello, capito? C'ho un dolore dietro al cervelletto quando non riesco a mettere in smooth, non ci riesco, non è... un fonema alla volta te lo faremo, bravo, e te lo, bravo, impareremo, bravo Francesco, io sai che ho sempre fiducia in te, qualche dia eufonica dentro, qualche dia eufonica soprattutto da avanti. Vabbè, ok. Comunque, l'hai fatta la domanda? Sì, gliel'ho fatta. Ah, okay. I progetti futuri. Ah, i progetti futuri. Ah, stavi dicendo addirittura che volevi eludere un po' lo schema, insomma. No, allora, un'altra avventura grafica ci sarà, perché io ho fatto giocare di ruolo ben più avanti di Mountains of Madness. cioè ho pezzi di storia che vanno ben più avanti. Abbiamo fatto questa cosa non è stata tanto detta oggi. Vai, scusami, questo se volevo stressare. No, vabbè, è nato anche il concetto, bene o male. Fatto, che no, che il plot era nato quando ti ho detto più o meno l'80%, però poi il plot che avevo, che mi ero scritto, l'ho fatto giocare di ruolo a degli amici. Da questo sono nati situazioni, sono nati personaggi tipo William Blanco, tipo Louis Baron e altre cose che non esistevano, ed è stato un esperimento interessante, un esperimento sociale. Tu prendi plot scritto per un videogioco e lo fai giocare di ruolo. La cosa bella è che rispetto a Mountains of Madness siamo andati parecchio avanti. Fortunatamente ce li ho tutti registrati, basta che me li vada a riascoltare ed è tutto al posto. Tra l'altro c'è anche una genesi dei cattivi che incontrerete in Mountains of Madness, che pure ho fatto giocare di ruolo, che è ambientata addirittura durante l'Impero Romano, partendo da Costantinopoli. Ma, wow. ma tu queste persone che hanno compartecipato al gioco di ruolo le hai pagate? No, le ho fatte divertire, le ho fatte di ruolo. Ma sì, le ha pagate in divertimento. Ma sì, sai che la mia è una domanda talmente stupida che non meritava manco una risposta, insomma. No, però è stato simpatico perché dice: ah, quello sono io, c'è Valerio che interpretava Lon Carter. E poi effettivamente Valerio somiglia un po' a Lon Carter. Bene, bene, bene. No, è stessa cosa simpatica. Naturalmente è una cosa che riguarda non riguarda il primo, riguarda Mountains of Madness. Però la cosa bella è che c'ho tanto materiale, quindi ci saranno sicuramente altre avventure grafiche. Però io avevo scritto in Unity un prototipo per uno shot 'em up. Ah. Che l'altro giorno mi è venuta l'illuminazione di come poterlo contestualizzare all'interno del mondo di Chronicle of Ismaht. E quindi sarebbe una cosa bella. Poi è Giampaolo, prima o poi vorremmo fare un Metroidvania, è vero Giampaolo? Proprio oramai ti sei completamente... Sì, tutto qua lo confermo. Prima o poi, forse prima che poi. O forse poi anche un po'. Vabbè, entrate in meccanismi anche più complicati dei game design, quindi io faccio il massimo degli auguri. E comunque c'è Lovecraft che dice che è contento che fate questo passaggio a Unity, così potrà giocare anche lui che c'ha il Mac. E questo è veramente contento. E poi vi dico che forse per chi ha Mac e Linux, forse sempre con Andrea, forse riusciamo a portare anche il primo addirittura. Sì. Bene. Perché lui ha scritto, tra l'altro sto ragazzo di N3 è stato bravissimo, lui non ha portato il gioco in Unity, ha scritto un tool per importare il gioco da AGS. Virtuoso proprio. Il programmatore in questo si riconosce, quando insomma. C'hai contro coglioni. Esatto. E niente, il cuciniere dice tipo fuga da Innsmouth. Vabbè, qui siamo alla citazione più becera. E poi dice che li ha pagati in natura, sì, quelli del gioco di ruolo. No, non si sono divertiti, ragazzi, ma avrei partecipato volentieri anch'io, insomma, quindi mi sarei anche divertito. Quindi. Possiamo fare qualche plot, la facciamo online. A voglia, a voglia. Io ho tante idee. No, piacerebbe un casino. Quando volete giocare di ruolo, perché no? Comunque abbiamo tante idee. E comunque portare il primo, sicuramente uno shoot 'em up e un Metroidvania, ma sicuramente adesso vediamo come va. Ma se le cose vanno come devono andare, incominciamo con la produzione del terzo della saga. Questo è poco ma sicuro. Dai. Perché io ci terrei a finire la storia. Cioè, le storie per me devono avere una fine, non sono quelle cose che devono andare avanti. Lo so che a molti non piace lo spiegone, però quando uno mette in ballo qualcosa poi deve spiegare anche che succede, secondo me. E quindi non lo so. No, è anche giusto, ma poi secondo me le storie a un certo punto ci devono neanche, no? Cioè devono arrivare a un punto, no? Sennò poi dopo diventa un ciclo infinito che romperà, come dicono in Francia. Insomma. Sì, secondo me qua la cosa perfetta che mi viene da immaginare per questa saga sono 5 giochi. per concludere un vediamo, speriamo di riuscirci. Certo, io sono sempre fiducioso, sono riottoso, ma sono anche fiducioso. Sì, riottoso è anche un po' becero qualche volta, e quindi va bene, insomma. Sì. Va bene, ragazzi. Allora, aspettate che recupero un attimo qua la documentazione, perché sapete che io sono ignorante, c'ho i miei problemi di ictus, come ho detto sempre. Vi ricordo quindi che vi metto nelle note dell'episodio sia il primo che il secondo gioco, ovviamente Chronicles of... Prego. Tra l'altro, scusa se ti interrompo. Vai. Adesso se cliccate su Psychodev ve li porto. Adesso funziona, tutti. Grande, grande. Vedi, sono stato contento di esserti stato utile, perché questa è una cosa che avevo già notato. E comunque, proprio voglio fare anche proprio la cosa becera, ragazzi. A 12,99€ Chronicles of Innsmouth non è fondamentale per giocare il secondo, ma secondo me lo dovete giocare, quindi andatevelo a comprare, non fate degli stronzi, io lo dico. E poi Chronicle of Innsmouth, quindi stavolta ce l'ho fatta quasi bene, Mountains of Madness, attenzione, qui sta a particolare dentiera, che ovviamente è uscito martedì e c'è ancora il 10% di sconto del lancio, quindi invece che 17,99€ lo trovate a 16,19€. E allora, ragazzi, uno, questa avventura c'ha carisma a fiotti proprio, cioè, quindi è proprio bello da vedere, anche se vi piace poi lo stile anni 90, diciamo così, anche in pixel art, quel tipo di animazioni è sicuramente bello, è bella l'atmosfera e sicuramente sarà bellissima l'avventura, che ho iniziato da poco e poi presto, insomma, quando l'avrò finita metterò anche la mia recensione. Ma è un progetto da sostenere, quindi non, su questo non se ne transigge. Anche perché poi noi vogliamo giocare al seguito, quindi lo dovete comprare, perché se il gioco non vende, poi giustamente poi Umberto c'ha difficoltà a farci vedere come finiscono quelli dopo, insomma, no? Giusto? Assolutamente sì. Bene. Massimo, se fa il libro game. Ma fa. Ti oppure se lo programmiamo in dialogo. Dialogo, ma sì, qualche cosa la troviamo, oppure se famo tutti, quando sarà finita la pandemia faremo una stanza di un po' di persone, se mettiamo lì e famo la più grande giocata del ruolo della storia dell'umanità e via. No, comunque ragazzi, sul serio, comprate il gioco e insomma poi fateci sapere, giustamente, sia nelle recensioni ma anche nei commenti, se l'avete comprato, ma soprattutto se vi è piaciuto, che è la cosa che poi alla fine penso che a una persona come Umberto il feedback secondo me fa più piacere di tante altre cose, insomma, giusto Umberto? Assolutamente sì, è importantissimo sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa è importante assolutamente sapere. Sì, allora, critiche costruttive naturalmente. Beh, sempre, se venite a dire che poi dopo il finale com'era, mi sono scordato, mannaggia, vabbè. Oh, ragazzi, io saluto Giampaolo e Umberto. Ciao, grazie di essere stati qua con noi. Speriamo di essere stati utili, ragazzi. Io lo dico proprio perché ci tengo, se no non facevo tutto sto marchettone che dura oramai da un sacco di tempo. Lo faccio perché ci tengo, se no non lo sapete, non l'ho mai fatto per nessuno e penso che continuerò a non farlo ulteriormente, perché ringrazio. Però Umberto, se lo merita, amico mio, questa radio mia, faccio quello che cazzo mi pare, non rompete i coglioni. C'ha ragione, okay. Il pallone è mio. Esatto, se no lo porto via, esatto. Grazie ragazzi, grazie pure a Francesco per essere stato con me, di avermi fatto compagnia. Grazie. Mi raccomando, comprate il gioco, altrimenti farete tutta una brutta fine. Esatto. Ci vediamo tutti a Rulli. Esatto. Beh, ragazzi, io vi lascio con il brano della settimana. E ci vediamo nei prossimi giorni. E intanto che ascoltate il brano della settimana, io saluto i miei amici e ci vediamo. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao.